Letture di Radio 24. È vero che molti stranieri commettono reati per i quali non vengono puniti, scrive Aldo Cazzullo su Io Donna, ma questo non può giustificare la solidarietà verso Alessio Burtone, l'uomo che con un pugno ha ucciso una donna rumena. Un uomo che picchiava una donna un tempo era considerato un vile. Per molti italiani, l'uomo che ha ucciso l'infermiera rumena alla fermata della metro della Nagnina è diventato un vendicatore. L'arresto di Alessio Burtone è stato accompagnato, come è noto, dalla protesta dei vicini e dagli applausi con cui gli amici hanno salutato l'uomo che ha provocato la morte di una donna. Ma la simpatia attorno a Burtone è più vasta. C'è chi approva proprio la sua reazione e dice che la rumena se l'è cercata. Per tanti, Burtone avrà anche sbagliato. Ma perché noi italiani dobbiamo sempre subire e ai rumeni non tocca mai? E comunque non voleva uccidere. Perché allora proprio lui resta in galera con tutti quei delinquenti stranieri a piede libero? Ora, che tanti delinquenti nostrani e di importazione girino indisturbati, purtroppo è vero. Ed è vero che qualche rumeno talvolta si comporta male. A me nessuno ha mai fatto nulla, mentre capita che qualche bullo italianissimo rischi di investirmi in moto sulle strisce o sfrecci sulle corsie preferenziali con un'auto dal permesso handicappati fasullo. Solo a Roma ce ne sono più di 170.000. Ma quella donna non era una delinquente, era un'infermiera che dopo aver passato la giornata ad accudire vecchi e malati, di cui noi non intendiamo occuparci, avrebbe voluto fare una coda senza che nessuno le passasse davanti. Gettarla a terra con un pugno e lasciarla lì, senza soccorrerla, è stato un gesto nobile? L'impressione è che gli stranieri siano diventati l'alibi per nascondere a noi stessi quel che siamo diventati. Avete ascoltato la lettura del commento di Aldo Cazzullo, Il vendicatore che picchia le donne, da Io Donna del 20 novembre. Letture di Radio 24. Si calcola che 2 milioni di italiani soffrano di allucinazioni uditive. Molti non ne parlano perché temono di essere presi per pazzi, ma non sempre sentire delle voci è sintomo di una malattia e a volte può anche avere effetti benefici. Io penso che si tratti di allucinazioni acustiche. Le ho avute un paio di volte dopo essermi svegliata improvvisamente per via di incubi e aver poi richiuso gli occhi per cercare di addormentarmi. Nel mio caso il cervello non era del tutto sveglio, per cui io, sebbene in uno stato mentale di veglia, sentivo questi rumori ad occhi chiusi e mi spaventavo moltissimo, sapendo di essere sola. Questi rumori sparivano subito se riaprivo gli occhi, ma riapparivano immediatamente a richiuderli. Uno stato di dormiveglia, dunque. Penso che se succeda ogni tanto sia una cosa normale. Se invece succede ogni giorno, potrebbe esserci una disfunzione organica. La testimonianza di una giovane donna, Giovanna, di 35 anni, su un blog, ne parla in rete alla ricerca di altri che sentono le voci. Per non sentirsi sola, per non pensare di essere matta. E sola non è. Di allucinazioni uditive soffrono oltre 2 milioni di italiani. Voci o rumori che non provengono dall'esterno e non ne parla per non passare per pazzo. Come è sempre accaduto dalla notte dei tempi. Se non si veniva considerati Cassandre o soggetti paranormali in linea diretta con le divinità. In Lombardia si stima siano circa 270.000 coloro che soffrono di allucinazioni uditive, sonore, dice Giuseppe Tissi, responsabile del centro psicosociale dell'ospedale Sacco, che si appella a tutti coloro che temono di essere considerati matti a uscire allo scoperto. Gli studi di Marius Romme, Università di Maastricht, su 15.000 persone, spiega Tissi, hanno evidenziato che una percentuale compresa tra il 2 e il 4% della popolazione è coinvolta e in 2/3 di questi non esiste alcuna patologia psichiatrica. Chi ha provato l'esperienza dell'allucinazione uditiva, a volte dunque lo nasconde anche alle persone più vicine. Ma è sbagliato, mette in guardia Tissi. In questi casi la paura di trasformare il proprio status in paziente può condurre a una vita interiormente isolata. L'obiettivo è anche far cadere un tabù. Si possono sentire le voci e avere una vita del tutto soddisfacente. In alcuni casi cercare di eliminare le allucinazioni può addirittura risultare dannoso. Le allucinazioni, infatti, non sono sempre negative e tantomeno spaventose. Spesso si tratta di invasioni gradevoli con cui è possibile stabilire una sorta di relazione che produce effetti positivi. Alcune persone vivono le voci come una compagnia e si sentono sole se le perdono. È decisivo non sentirsi sovrastati dalle proprie allucinazioni. Quando si riesce a non avvertirle più come un problema, si smette di venirne condizionati. Spesso, nel 70% dei casi, la causa è di origine traumatica, un evento particolarmente stressante a livello emotivo, una violenza sessuale, un'aggressione, una catastrofe naturale, un lutto. È molto importante e quasi mai semplice individuare questo trauma. Rimane sepolto nella memoria della persona ed è apparentemente inaccessibile. Di fronte a domande superficiali non emerge, lasciando all'esaminatore l'impressione errata che le voci non abbiano relazione con gli eventi di vita. L'impatto delle nostre esperienze sulla psiche è assolutamente soggettivo. Quando le voci sono sgradevoli perché minacciose o svalutanti o danno ordini, diventano un problema. In questi casi è importante un lavoro di ricerca del trauma che le ha originate, lavoro che spesso si fa più volentieri in un gruppo di aiuto e mutuo aiuto, insieme allo specialista e a persone con lo stesso problema. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Pappagallo, I 2 milioni di italiani che sentono le voci, dal Corriere della Sera del 22 novembre. In Italia, il ricordo della figuraccia all'ultimo mondiale di calcio brucia ancora, ma potremmo consolarci guardando quello che succede a San Marino, dove la squadra nazionale ha il triste primato di occupare l'ultimo posto nel ranking della FIFA. Là sulla rocca si erge un mondo capovolto in cui si può anche andar fieri della propria differenza reti. 17 gol fatti, 445 subiti. Non perché è paradossale, ma semplicemente perché esiste. Lassù qualcuno entra in campo e se la gioca anche se è già tutto scritto o quasi. Succede da 20 anni. La peggior nazionale del mondo è San Marino. Benvenuti a Lilliput. Una porta spalancata su un futuro che non può cambiare, perché lo spessore tecnico e l'impostazione dell'intera faccenda, dilettanti contro professionisti, non lo consentono. Prima partita ufficiale il 14 novembre del 90. Perdere 4-0 con la Svizzera sembrò un mezzo trionfo. Da allora 103 incontri. Le sconfitte pesanti sono l'abitudine. Subisce una media di 4,32 gol a partita. Non si parla di vittorie, ma di vittoria. Una sola. Contro il Liechtenstein, in amichevole nel 2004, per 1-0. Tre i pareggi. Storico quello casalingo, 0-0 con la Turchia, qualificazioni a USA 94, roba da non credere. Poi 1-1 in Lettonia nel 2001 e 2-2 con Liechtenstein in un'altra amichevole. La sua specialità sono i crolli, tutti vissuti a testa alta. Mercoledì sera a Helsinki contro la Finlandia, i ragionieri e gli studenti agli ordini di Giampaolo Mazza e guidati in campo da Andy Selva hanno retto per 39 minuti, sorretti dall'insolito orgoglio di chi è condannato alla non speranza. Non fanno barricate, ma poveracci, essendo europei, sono costretti a ospitare l'Olanda, cui a inizio settembre, prima del match, regalarono mazzi di delfinium con i colori della bandiera, il bianco e l'azzurro, e poi in campo furono costretti a far marcare Snyder da Berretti, uno di professione studente, l'altro di professione campione d'Europa. Oppure la Germania, che nel 2006 costrinse San Marino al passivo più pesante, 0-13. Collezionando numeri, ci sta che la FIFA la releghi all'ultimo posto nel ranking al numero 203, l'interno della strada più povera del calcio, dove c'è da battagliare a 0 punti con Anguilla e Montserrat, Papua Nuova Guinea e Samoa Americane, dove si vive con altra benzina e altre motivazioni, dove i cappotti sono la norma. San Marino, tuttavia, sta peggio delle sue vicine di casa e di differenza reti, perché se sei invisibile, ai Caraibi o in Oceania ti può anche capitare di incontrare qualcuno al tuo livello di impalpabilità. All'Europea San Marino, no. Le toccano solo squadre d'alto rango. Pure Malta fa ragionevolmente paura. Pure Litmanen, a 39 anni, con una statua appena costruita in suo onore in Finlandia, lì in fila diventando il più anziano marcatore delle qualificazioni europee. E così debbono contentarsi di far festa ricordando l'ultimo gol segnato, alla Slovacchia nel 2008, o ripensare commossi alla rete lampo dopo 8 secondi di David Gualtieri all'Inghilterra nel 93, la rete più veloce della storia del calcio. C'è su YouTube. Poi finì 1-7. Si rassegneranno con dignità a migliorare il record rovesciato della serie di sconfitte consecutive, 38. La serie è ancora aperta. Una volta giocammo contro di loro in amichevole a Cesena. Era la terza partita di Sacchi in panchina. Vinse l'Italia 4-0 e Baggio segnò una doppietta. Anche allora, con l'ex juventino Massimo Bonini, capitano in mezzo al campo, e poi sarebbe anche diventato CT, i sanmarinesi resistettero per quasi un tempo. La loro maniera di dire al mondo: guardate che ci siamo anche noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Sisti, Prendere 445 gol e vivere felici a San Marino, da Repubblica del 20 novembre.